Noi siamo particolarmente contenti non tanto per la giornata mondiale dell'acqua, ma per il fatto che sui temi del risparmio, della sostenibilità, picchiamo come dei fabbri da settembre circa. Sì, e ricordiamo anche, per quanto riguarda l'acqua, che il 50% dell'acqua potabile viene dispersa e il 60% viene dispersa anche dell'acqua irrigua. Quindi vuol dire che ci sono degli sprechi enormi nel sistema di trasporto dell'acqua e questo è un problema che poi è anche molto difficile da affrontare. Ci sono racconti di fantascienza dove la prossima guerra mondiale si combatterà per il petrolio, no, per l'acqua, per cui c'è, insomma, il tema l'oro blu. E noi sull'oro blu abbiamo preparato, anzi Luca dello Iacuo ha preparato una scheda. Acqua pulita per un mondo più sano è lo slogan per la giornata di sensibilizzazione promossa oggi dalle Nazioni Unite. Le cifre descrivono un'emergenza idrica globale. Una persona su sei non ha accesso all'acqua potabile. Gli sprechi sono elevati. Nei paesi in via di sviluppo, il 90% degli scarichi civili e industriali non viene trattato. Entro il 2030 la Cina assorbirà quasi la metà delle richieste aggiuntive per l'impiego di acqua da parte delle imprese. Ma le conseguenze della scarsità riguardano anche la salute. Ogni giorno 4.000 bambini muoiono per malattie causate da acqua inquinata. La metà dei posti negli ospedali nei paesi in via di sviluppo è occupata da persone che hanno subito danni per le scarse condizioni igieniche. Sì, tra l'altro tu mi parlavi prima di acqua virtuale, in che senso? C'è un'idea molto bella, cioè per capire come la distribuzione di acqua nel mondo sia ineguale, c'è questa idea dell'acqua virtuale. Che significa, in parole semplici? Pensiamo che per avere una bistecca di un chilo di carne servono 16.000 litri di acqua. Perché così tanti? Perché è tutta l'acqua che bisogna impiegare per allevare poi gli animali, e tutta l'acqua che bisogna allevare nel processo di produzione. E quindi vuol dire che c'è un consumo enorme di risorse, e che queste risorse poi non sono diffuse ugualmente su tutta la terra, no? Sì. E quindi dove ci sono molti animali si consuma anche tantissima acqua.